Siamo al cinema visionari su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15, ma spesso anche alle 13:30, diciamocelo, dopo il giornale radio, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta. E le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sempre sul sito, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. E allora eccoci con la pianista Giovanna De Rubertis per parlare con lei del concerto del trio Tecnè con musiche dal cinema che sarà al Blue Desk qui a Roma il prossimo 28 maggio, ovvero sia domenica. Giovanna, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Mi interessava, appena l'ho visto questo appuntamento, allora intanto raccontiamo cos'è il trio Tecnè. Allora, il trio Tecnè è un trio classico composto da pianoforte, violino e violoncello, e siamo tre musiciste che proveniamo dal Conservatorio di Santa Cecilia e ci siamo perfezionate in musica da camera, e diciamo che il nostro repertorio spazia dai classici ai contemporanei, ma in questi ultimi anni ci siamo, diciamo così, spinte verso territori sonori che in qualche modo non ci appartenevano, ecco, e quindi da qualche anno stiamo lavorando a questo progetto che è appunto dedicato alle colonne sonore, alle musiche da film, quelle più celebri, e abbiamo cercato appunto di ricreare un equilibrio tra questi tre strumenti e quelle musiche che in realtà poi sono state in gran parte pensate per orchestra e comunque anche sono più che altro il risultato poi una ricerca di suoni sempre, come dire, sempre meno tradizionali e sempre un po' più elettronici e campionati. Quindi noi, grazie anche a Fabrizio Siciliano, che è un musicista e arrangiatore, quindi ha arrangiato queste musiche per trio, abbiamo dato vita a questo progetto, quindi a questo repertorio di musiche che vanno appunto da I Pirati dei Caraibi, The Imitation Game, New Moon, insomma abbiamo fatto una selezione, ovviamente perché non potevamo fare certo una maratona di tutte le più belle musiche conosciute nella... Senti, come riferimenti, allora adesso rispondendo alla mia domanda, hai detto musica per orchestra e poi anche tendente all'elettronica. E ci sono, c'è un filo conduttore, ci sono delle scelte rispetto anche all'arco temporale, ai decenni del cinema che avete scelto o ai filoni dei film, in questo senso? No, guarda, diciamo che la scelta che abbiamo operato, la selezione anche, anche un po' consigliata appunto da Fabrizio, che ha dovuto arrangiare le musiche, la scelta era proprio quella di alternare comunque brani da un ritmo incalzante come può essere Kung Fu Panda a dei ritmi magari che potevano riportare anche a delle atmosfere un po' più epiche come Game of Thrones, anche a diciamo brani un po' carichi di pathos emozionali come il valse di Prisden. Insomma, abbiamo fatto una scelta non dettata da, come dire, da una cronologia, non dettata soltanto abbiamo puntato più che altro a fare un qualcosa che avesse diciamo l'intento era quello di creare dei momenti più che altro di intensità, di emozione, di anche di divertimento, ecco. Senti, per quanto riguarda questo esperimento sul cinema, avete già fatto altre serate, e com'è la risposta del pubblico? No, guarda, ti devo dire che questo è il nostro debutto, debutto, che bello. Sì, no, nel senso che noi appunto fino a qualche anno fa abbiamo sempre fatto concerti di musica classica. Okay. Ecco, ci siamo spinte fino a Piazzolla, quindi il nostro ultimo progetto è stato proprio un progetto dedicato esclusivamente ai tanghi di Piazzolla, sempre riscritti e ripensati per un trio classico, e quindi questo è proprio, come dire, domenica ci mettiamo alla prova. Ok, senti, i riferimenti web per saperne di più sul trio e anche sulla serata? In realtà non ce ne sono, perché a Taranella il sito del Blue Desk al momento noi stiamo ci stiamo un po' ricostruendo, perché in realtà il nostro trio è un trio che nasce nel 99, quindi noi lavoriamo insieme da parecchi anni, però siamo un po' classiche anche sotto questo punto di vista, quindi non siamo non lavoriamo appunto con i social, okay. Quindi adesso stiamo cercando un po' di di essere un po' più contemporanei, un po' più moderni anche da questo punto di vista. E infatti ieri volevo spedirvi la scaletta e non sapevo dove mandarla. Ci scusiamo, stiamo lavorando anche su questo. Quindi comunque, stiamo lavorando tra l'altro anche appunto a una pagina Facebook, a un nostro sito che avevamo fino a poco tempo fa, ma avevamo un altro nome, quindi ci chiamavamo Trio Alma Mahler, per cui adesso dobbiamo ricostruire anche quello. C'è un'altra identità. Stiamo lavorando a un videoclip che insomma avrete poi modo di poter vedere sulla rete, e sulla rete c'è soltanto un altro piccolo progetto che abbiamo fatto l'anno scorso dedicato a Vasco Rossi, che si chiama Vasco in Classica, e anche quello è esecuzione delle più famose canzoni di Vasco in trio, okay. Sempre arrangiate da Fabrizio. Allora, Giovanna, ricordando l'appuntamento che è domenica 28 maggio al Blue Desk qui a Roma, l'orario è le 21? Alle ore 20. Ti anticipo anche che ho parlato con Ottavia Monicelli, stavamo per la trasmissione di cui ti avevo accennato, Tracce di Cinema, per ospitarvi, e insomma lei sarebbe molto contenta, quindi molto volentieri, insomma, è un'idea che possiamo sviluppare nei prossimi giovedì, quindi speriamo a presto, grazie a te. Ciao Giovanna. Ciao. La pianista Giovanna De Rubertis per parlarci del concerto del trio Tecnè con musiche dal cinema al Blue Desk qui a Roma domenica 28 maggio. Eccoci con Monica Naldi di Bards and Hippo sulla distribuzione del film Alamar, in uscita in sala oggi giovedì 25 maggio. Monica, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi per l'invito. Allora, ci racconti un po' di questo lavoro, cos'è? Il film è un piccolo film messicano che ha vinto un sacco di premi in diversi festival europei, americani, insomma un po' di tutto il mondo, che nessuna casa di distribuzione italiana aveva voluto prendere perché evidentemente non era super appetibile a fini commerciali, però noi ce ne eravamo innamorate e lo volevamo portare. Ci abbiamo messo un po' di anni perché all'inizio costava moltissimo e noi non siamo una casa di distribuzione, ma abbiamo semplicemente delle sale, e alla fine siamo riuscite a portare il film in Italia con l'aiuto di alcuni amici, e quindi eccoci qua. Senti, cosa ti ha convinto di questo film? Ma è un film molto delicato, è un film strano perché non succede niente, eppure rimane quasi niente, eppure rimane incollato allo schermo tutto il tempo. È delicato eppure intenso, è realistico eppure non è un documentario, anche se che a tratti lo sembra. È un film pieno di significati, però raccontati in una maniera molto semplice. Insomma, è un film contraddittorio eppure molto semplice nello stesso tempo. Senti, molto poetico. Del regista cosa sappiamo? Allora, il regista, forse è il caso che sono anche un po' più specifica, il regista Pedro González Rubio è messicano e ha vissuto per molto tempo nei luoghi in cui è ambientato il film, cioè i mari caraibici del Messico, questi luoghi splendidi, è molto a rischio, e ha deciso di portare appunto la sua macchina da presa, in particolare in un atollo protetto dall'UNESCO, che però diciamo, se non lo si conserva molto molto bene, rischia di scomparire con una sua splendida barriera corallina. Senti, è il suo primo lavoro ad arrivare qui? È il suo primo lavoro ad arrivare in Italia, benché appunto abbia vinto molti festival sia con questo lavoro che con i suoi lavori successivi, okay, come Inori ad esempio, che ha vinto a Locarno. Senti, per quanto riguarda la distribuzione, che modalità avrà? In quante sale sarà? Allora, partiamo con 11 città, se non sbaglio, circa 11 sale, a cui poi si aggiungeranno altre sale nei prossimi giorni, con poche copie ovviamente perché siamo piccolissimi, però diciamo che sarà una distribuzione progressiva e graduale, perché cercheremo poi di portarlo man mano in altre città, nei paesi, nei cinema parrocchiali, nei cineforum e nelle scuole, perché è anche un film adatto alle scuole. Senti, ci racconti, visto che è la prima volta che ci sentiamo, dell'esperienza a Bars & Dippo? Sì, allora, Bars & Dippo è una piccolissima società composta da solo due persone al momento, che siamo io e Paola. Bars & Dippo ha cominciato facendo arene estive, quindi proiezioni all'aperto, e poi ha cominciato a gestire piccole sale comunali, parrocchiali, quelle sale insomma che è un po' difficile anche poi riuscire a tenere aperte, e poi l'ultima sala arrivata è il Beltrade di Milano, dove abbiamo potuto sbizzarrirci in una programmazione un pochino diversa dal solito. Bene, allora ci dai un qualche luogo web di riferimento per saperne di più? Certamente, rispetto al documentario, al film, scusami. Certo. Allora, sul film trovate le immagini di questi luoghi splendidi, il press book, rassegna stampa e soprattutto le sale con le proiezioni con gli orari. Il sito del film è www.alamarilfilm.it. Perfetto. E poi su Facebook c'è una pagina Facebook, è sempre alamarilfilm, lo stesso anche per Twitter, per Instagram. Benissimo. Allora Monica, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi, grazie mille a voi. Ciao, ciao, e ciao. Buone visioni, ciao. Monica Naldi di Bars & Dippo sulla distribuzione del film Alamar di Pedro González Rubio, in uscita in sala oggi giovedì 25 maggio. Eccoci con Claudia Pecoraro, curatrice della seconda edizione di Remix Cinema Cultura Migrazioni al Kino qui a Roma dal 26 al 28 maggio, ossia da domani a domenica. Claudia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, Remix è la seconda edizione, per chi non la conoscesse, di cosa, come è cominciata, di cosa si tratta? Remix è una breve rassegna alla sua seconda edizione che facciamo al Cinema Kino a Roma, che è nata per una volontà precisa del CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ormai è un'istituzione che da tempo si occupa di studi sulle migrazioni e da tempo pensava di, come consueto nella loro ricerca, di aprire una breccia nel mondo accademico e quindi di affrontare le migrazioni con una modalità un po' differente dal solito, quindi non solo la modalità della ricerca scientifica che è proprio del CNR, ma anche un approccio più emotivo come quello del cinema, ed ecco perché ha coinvolto il Kino. Senti, come, allora, intanto chi ha scelto e su quali modalità le pellicole che proponete in questa seconda rassegna? Le pellicole, come l'anno scorso, le abbiamo scelte di concerto con il CNR e il Kino. Ok. Ogni anno scegliamo un fil rouge che è molto blando per approfondire la tematica delle migrazioni, che è molto sfaccettata, molto variegata, quindi ci sarebbe da parlare tantissimo. Quest'anno il fil rouge è il vissuto delle persone che vivono sulla propria pelle le migrazioni, sia dal punto di vista di chi viaggia, sia dal punto di vista di chi accoglie, Quindi le persone comuni, cioè come vivono il sentimento della migrazione? Questo è un tema che ci è sembrato che venga affrontato molto poco. Claudia, come sono strutturate le tre giornate e quante sono le opere proposte? Le serate sono tre, cominciano venerdì, domani 26 maggio, e terminano domenica. La formula delle tre serate è uguale, cioè alle 20:30 si ha la prima proiezione, a seguire l'incontro con il regista e i ricercatori del CNR e gli esperti. Dopo le 22:30 c'è la seconda proiezione dello stesso film della serata. Ok. Senti, a questo punto ti chiedo anche se sono previsti momenti di incontro e di dibattito. Sì, certo. Subito a seguire le prime proiezioni ci sono gli importantissimi incontri che per noi sono la vera chiave del remix. Perché per noi remix non è solo il mix di culture che noi rappresentiamo sullo schermo, ma è anche proprio il mix tra i ricercatori del CNR e chi si occupa di cinema, quindi affrontare in modo diverso lo stesso tema. Sì. Quest'anno abbiamo ospiti molto importanti e mi piace segnalare che domani avremo un ospite d'eccezione che è Daniela Di Capua, che è il direttore del servizio centrale SPRAR italiano. Lo SPRAR, per chi non lo sapesse, è il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, quindi è diciamo la modalità di accoglienza che ormai è stata riconosciuta come la migliore, la più adatta ad accogliere i migranti. Okay. E quindi sarà un'ottima occasione per il pubblico fare delle domande a persone che si occupano di migrazioni in prima persona. A questo punto ci puoi anche anticipare i titoli dei lavori proposti? Come no? Il 26 maggio, ossia domani, abbiamo la proiezione de Immigrati di Francesco Paolucci, che è un documentario italiano molto particolare che racconta il viaggio di quattro ragazzi disabili che sono divenuti giornalisti per l'occasione e vanno nei paesi dell'Appennino, proprio dove i migranti sono accolti, e intervistano i migranti. Quindi ne esce fuori un'immagine molto differente da quella descritta nei media. Poi sabato abbiamo un documentario spagnolo, En Tierra Extraña, di Isiar Bollain, che è la storia di spagnoli emigrati ad Edimburgo, quindi un tipo di migrazione un po' diversa da quella di cui si tratta di solito, però anche la condizione dei migranti spagnoli è emblematica dei flussi migratori interni all'Europa. L'ultimo appuntamento della rassegna è domenica con Sponde, Nel sicuro sole del nord, che è un documentario di Irene Dionisio. Molto bello, è ambientato a Lampedusa per gran parte, dove un custode in pensione del cimitero seppellisce i migranti vittime dei naufragi e intesse una corrispondenza molto particolare con un postino in Tunisia che raccoglie gli oggetti restituiti dal mare e dalla terra e ne fa un'opera d'arte. Bene. A questo punto chiudiamo con i riferimenti web per il programma e tutte le informazioni. Certo, la rassegna si chiama Remix, Cinema, Cultura, Migrazioni, quindi la trovate a parte sulla pagina Facebook del Chino. E poi tutti i riferimenti sono anche su www.ilchino.it. Bene. Un abbraccio, un in bocca al lupo, alla prossima. Crepi, grazie a voi. Ciao Claudia. Claudia Pecoraro, curatrice della seconda edizione di Remix Cinema Cultura Migrazioni al Chino, qui a Roma, dal 26 al 28 maggio. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. E sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni visionari trovate la scaletta e tutte le informazioni sulla trasmissione, sulla scaletta di oggi e le informazioni sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Oh, non era in scaletta, ma volentieri ne parliamo. Parliamo proprio con lei, Erika Rossi, regista del documentario Tutte le anime del mio corpo, che è in prima nazionale quest'oggi, questa sera all'Apollo 11 qui a Roma. Erika, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno a tutti. Ci eravamo sentiti un po' di tempo fa per un tuo precedente lavoro, ora arrivi, torni a Roma con Tutte le anime del mio corpo. Cosa racconta? Allora, il film, il documentario, è la storia di un ritrovamento di un diario. Una donna, Lorena Fornasir, qualche anno fa, dopo la perdita di sua madre, ormai novantenne, rimettendo a posto le sue cose, ha ritrovato il diario che la madre aveva scritto quando era molto giovane, negli anni tra il 42 e il 45. E la madre era stata una partigiana, però una partigiana particolare, perché era stata una spia di Tito nella resistenza di jugoslava nell'epoca, insomma, prima che la resistenza italiana si organizzasse, quindi ancora prima del 43. E facendo questa scoperta, il documentario segue un po' il percorso interiore che la figlia fa nello scoprire che la madre è una persona diversa da quella che lei ha conosciuto. Scopre la donna, insomma, più che madre. Ecco, questo è il tema del film. Come era cominciato tutto? Come è venuto fuori il progetto documentario? Allora, ma io ho incontrato la produttrice Marta Zaccaron ormai 4 anni fa, e con lei si pensava di cercare una storia che raccontasse un po' il fascismo di frontiera, dove molti italiani avevano deciso di unirsi agli slavi, essendo che lì la situazione, cioè sul confine, quindi vicino a Trieste, Gorizia, dove io sono nata, il fascismo era stato protagonista, insomma, di molte persecuzioni sulla popolazione slovena, e per questo poi molti italiani avevano deciso di unirsi a quella resistenza. Quindi l'inizio, il pretesto è stato raccontare un contesto storico. Poi però ho incontrato per caso un piccolo passaggio di questo, ho scoperto per caso un piccolo passaggio di questo diario in un saggio. Il diario era ancora inedito e sono rimasta semplicemente colpita dalla scrittura di questa ragazza, che decide, insomma, di fare questa scelta estrema di vivere la vita, e ho scoperto che esisteva una figlia, che la figlia aveva pubblicato questo piccolo passaggio, e quindi il film nasce da un incontro con quella che poi è la protagonista, Lorena Fornasir. Nasce dalla nostra relazione empatica, e quindi se il film all'inizio voleva essere appunto un racconto di un personaggio che poteva raccontare bene questo storico, poi si è trasformato più nel racconto di una storia personale, della relazione che lega una madre a una figlia, e di quello che si può scoprire solo dopo che si è persa una persona così cara. Senti, ecco, dal punto di vista umano, quali sono gli elementi che più ti hanno colpito e che hai voluto rendere anche nel tuo lavoro? Ma decisamente io mi sono un po' identificata, insomma, nel percorso che stava attraversando Lorena quando l'ho conosciuta, perché aveva deciso, dopo aver ritrovato il diario, aveva deciso di renderlo pubblico, e quindi semplicemente stava un po' rivivendo tutta la sua infanzia, il suo percorso di figlia. E io mi sono un po' rivista, perché anch'io ho perso mia madre, e quindi sono passata attraverso a questo lutto, insomma, importante, e quindi nel film credo che di aver cercato un po' di raccontare questo percorso, che però per forza non è che per forza debba implicare una morte o una perdita, però sicuramente una revisione a posteriori, ecco, di una relazione tra genitori e figli che spesso viene data per scontata. Mm-hmm. Senti, il titolo? Il titolo è tratto dal libro che del diario che è anche stato pubblicato praticamente un anno fa, è uscito Tutte le anime del mio corpo, il titolo del libro pubblicato da Lorena Fornasira, appunto la figlia di Maria Antonietta Moro, che è il nome della madre, ed è un passaggio del diario, è una frase che lei scrive quando è in piena guerra e spaventata, e dice spaventata perché i fascisti la stanno cercando, la stanno perseguitando, e quindi dice che riesce a sentire tutte le anime del suo corpo. E come hai strutturato, organizzato il documentario? Ci sono interviste o segui? Io ho seguito la vita quotidiana di Lorena, sì. Per più di un anno, l'ho seguita nel corso di un anno, quindi finisci l'accompagna nella sua vita quotidiana, e poi mentre in parallelo scorrono dei momenti in cui lei fa vivere dentro di sé le parole del diario, che sono raccontate attraverso filmati d'archivio, sia provenienti dall'archivio di famiglia On Movies di Bologna, e quelle immagini sono destinate a raccontare la madre per come lei si ricorda, sia invece da molti archivi dell'ex Jugoslavia, sia da Belgrado, Zagabria, Lubiana, e quindi il film si muove avanti e indietro su questi due binari, per raccontarci la donna che era sua madre e parallelamente la riflessione che la figlia sta facendo scoprendola. Senti, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certamente. Il film intanto è stato presentato allo scorso di Jean Durel al Festival di Documentario di Nyon, e questa è la sua anteprima romana, e potete trovare ogni informazione sul film sul sito della Quasar Multimedia alla pagina Tutte le anime del mio corpo, e la Quasar Multimedia ovviamente la produzione italiana, la produttrice Marta Zaccarone. Il film è stato finanziato con i fondi regionali del Friuli Venezia Giulia e la Film Commission del Friuli Venezia Giulia. Benissimo. Erika, un abbraccio, spero a presto su queste frequenze. Vi ringrazio moltissimo, a presto. Ciao. Allora, l'appuntamento è con Erika Rossi, con il suo documentario Tutte le anime del mio corpo, in prima nazionale quest'oggi a Roma, questa sera all'Apollo 11, giovedì 25 maggio. Andrea Inzerillo, direttore della settima edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo da ieri fino al 1° giugno. Andrea, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, buongiorno. Settima edizione, com'era iniziato il Sicilia Queer Film Fest? Dunque, è iniziato ieri con l'inaugurazione di una mostra in cui degli artisti italiani e tedeschi hanno tradotto nel loro linguaggio i cortometraggi in competizione. Poi è iniziato con un'orchestra di contrabbassi che per i viali dei cantieri culturali alla Zisa ha accompagnato. Pronto? Pronto? Eccoci. Eccoci. Sei tornato. Sì, sono tornato. E dopo, appunto, dopo l'orchestra di contrabbassi c'è stata la serata inaugurale con il primo film, Little Man di Aero Sax. Senti, invece no, ti chiedevo prima come è iniziato tutto, dalla prima edizione, come è nato il Sicilia Queer Film Fest? Il festival è nato da un'associazione e da un gruppo di persone, da un gruppo di appassionati che hanno deciso di dare vita a uno spazio di visibilità per una cinematografia che a Palermo e in Sicilia, in realtà a sud di Roma, allora non aveva diritto di cittadinanza. Da allora il festival è cambiato, è cresciuto, diciamo le persone sono diverse, ma comunque quello che lo caratterizza è uno sguardo aperto al cinema, non soltanto, anche oltre le tematiche LGBT, ecco, queer in un senso molto ampio, anche linguisticamente queer. Ok. Senti Andrea, e quante opere presentate in questa edizione? Tra corti, medi e lunghi sono più di 60. Ci sono due competizioni, una competizione di cortometraggi, una di lungometraggi, e poi tante altre sezioni non competitive. I paesi di provenienza? Di tutto, perché abbiamo da Sion Sono, quindi il Giappone, agli Stati Uniti di Gabriela Brantes, al Portogallo, sono adesso all'aeroporto con João Pedro Rodrigues e João Rui Guerra D'Amata, la Francia, insomma davvero da tutto il mondo. Sono previsti anche incontri? Sono previsti molti incontri, perché abbiamo ogni giorno uno o due ospiti che presentano i loro film, e sono sia attori che registi, che anche, per esempio, l'1 giugno ci sarà un produttore molto interessante, un produttore indipendente spagnolo come Luis Mignarro, che presenterà un film che ha prodotto, che si chiama Vivir y otras ficciones. Senti, una curiosità rispetto alle tematiche, più presenti in campo queer, e poi i paesi più in fermento da questo punto di vista. Dunque, io penso che quest'anno la selezione che presentiamo dà molta attenzione a, stranamente, perché non era così negli ultimi anni, ha una cinematografia a tematica lesbica, cioè abbiamo trovato delle opere interessanti che raccontassero storie di donne spesso viste dal punto di vista delle donne. Per quanto riguarda le cinematografie più importanti per il cinema queer, io credo che non ci siano dubbi sul dire che oggi il Portogallo è veramente una fucina straordinaria, non soltanto di cinema queer, io direi di cinema, e per questo anche che il Portogallo è così presente nel nostro festival. Le rivendicazioni più presenti? Non saprei. Questo non è tanto un festival di rivendicazioni, è un festival di forse credo che lo sguardo sull'adolescenza sia molto presente. Okay. Il film dell'apertura è un film sull'adolescenza. Sì, credo questo sia quello che ci caratterizza. Beh, quest'anno. Andrea, i riferimenti web per tutte le informazioni? Sì, allora abbiamo un sito internet che è www.siciliaqueerfilmfest.it, e poi siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Instagram, eccetera, eccetera. Allora, un abbraccio, un buon proseguimento, a risentirci presto. Grazie mille, a presto, buon proseguimento a voi. Andrea Inzerillo, direttore della 7ª edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo da ieri 24 maggio fino al 1 giugno. Eccoci con Francesco Bussolai, regista del documentario Re-Legalized, un viaggio nella cannabis rilegalizzata, che sarà in programmazione al Cineclub de Tour qui a Roma il prossimo 31 maggio, cioè mercoledì della settimana prossima. Francesco, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, ciao a tutti. Allora, chiaramente ci interessava, in quanto la radio da sempre ha fatto anche battaglie rispetto alla legalizzazione. Ci racconti un po' di questo lavoro? Sì, questo è un film che io ho girato nell'ultimo anno e mezzo negli Stati Uniti, fondamentalmente in Oregon, dove hanno legalizzato anche l'uso ricreativo dall'ottobre del 2015. Io sono andato lì a fine ottobre del 2015 e ho iniziato a girare che cosa sta succedendo lì nel momento in cui legalizzano per tutti. L'uso medico in Oregon è legale già da 18 anni, 20 anni, adesso hanno legalizzato l'uso ricreativo, e racconto un po' un mondo che cerca di resistere tra grandi interessi e da grandi pressioni. C'è chi cerca di coltivare solo marijuana biologica, che ha un uso medico diffuso con grande possibilità e moltissimi posti di lavoro creati, tutto questo mediato da una parte scientifica fatta da uno neuroscienziato italiano che è Gianluigi Gessa, che racconta un po' come la cannabis e un po' tutte le droghe agiscono sul nostro organismo. Rispetto agli Stati Uniti, l'impressione che ho avuto rispetto a questa nuova tendenza è che, essendo un paese molto pragmatico, ha fiutato l'odore del business, e questo sentiero l'ha intrapreso da questo punto di vista, mi è sembrato un po' di capire. Tu che dici? Sì, che il business sta sicuramente guidando tutto, specie in Colorado, che sono i primi che hanno iniziato e che stanno spingendo molto. La realtà è che questo è solo uno degli aspetti, perché sì, c'è un aspetto sanitario molto importante. Negli Stati Uniti più di 1.200.000 persone oggi usano la marijuana per curarsi dalla sclerosi multipla, ai tumori, all'Alzheimer, al morbo di Crohn, a decine di malattie, e questa è una parte assolutamente, secondo me, importante. L'altra parte importante è una parte che riguarda i diritti. Nei posti dove stanno legalizzando, piano piano stanno smettendo di arrestare le persone, e gli Stati Uniti hanno 3 milioni di persone che sono in galera per possesso di marijuana. Sono numeri mostruosi, veramente. Quindi il business è quello che guida tutto, che gli americani, come dici tu, sono pragmatici, hanno studiato questo, però ci sono altri aspetti che non sono meno importanti. Quello è un di più, si possono sì, creare un sacco di posti di lavoro e si può creare una nuova economia, però con una parte sanitaria importante, medica importante, e con un'attenzione ai diritti che, secondo me, dopo 80 anni di proibizionismo, forse ce lo meritiamo anche. Ecco, dal punto di vista medico, proprio da quel punto di vista, Francesco, volevo sapere se comincia a avere una sua rilevanza l'uso della marijuana medicalmente. Guarda, io c'ho un esempio nel film, che è un bambino di 8-9 anni che la usa per l'epilessia, quindi c'è tutta una parte anche per i bambini, non avendo gli effetti collaterali che hanno i farmaci tradizionali, che è molto importante. Per quanto riguarda il dolore cronico, gli Stati Uniti sono una terra che consumano quantità di oppiacei, di antidolorifici veramente incredibile. Nei posti dove hanno legalizzato, i consumi di oppiacei sono calati al 90%. Questo a tutti i livelli, dai semplici mal di schiena ai malati terminali, ecco. Quindi anche dal punto di vista delle cifre comincia ad avere una sua rilevanza. Le dimensioni sono veramente, veramente importanti. Io quello che dico sempre è che quando sono arrivato negli Stati Uniti è la cosa più grossa che sta succedendo nella costa ovest. Cioè, non è che si parla di Silicon Valley o si parla di Hollywood, si parla di cannabis in California, in Oregon, a Washington. Quello è diventato oggi uno dei primi, se non il primo, settore economico, per cui sta trainando molto, e tra l'altro sta creando posti di lavoro in fasce della popolazione che normalmente sono escluse da politiche del lavoro. Io per 20 anni ho fatto l'economista del lavoro e mi sono occupato di politiche del lavoro, questo è stato il mio lavoro fino all'altro giorno. Tutte le persone che per anni sono state arrestate, perseguitate, seguite dalla polizia, oggi sono quelle che sanno fare meglio questo mestiere, e sono posti di lavoro che si stanno creando in settori che per noi sarebbero marginali e sempre trascurati dalle politiche del lavoro. Io credo che sia veramente una parte che può dare un nuovo sviluppo, ma l'unica cosa che conta in tutto questo è come verrà regolamentato il mercato e il sistema. Certo. Nel senso che in Italia l'uso medico è legale da 10 anni. Il farmaco, io lo racconto nel film, esiste un farmaco per la sclerosi multipla che si chiama Sativex, che costa 8.000 euro per paziente l'anno. Questi sono i costi di un semplice estratto di marijuana. Per una pianta che possiamo coltivare nel balcone di casa spendiamo 8.000 euro per malato. Questa cosa mi riguarda molto perché la Sardegna è una delle più alte incidenze al mondo di malati di sclerosi multipla, quindi abbiamo 6.000 malati. Se decidessero di darlo a tutti i malati sarebbero 48 milioni di euro solo per un farmaco e per una malattia solo per la regione Sardegna. Queste sono le potenzialità di un uso medico diffuso, però tutto dipende da come verrà regolamentato. Saremo liberi di andare a comprare un pacchetto di Marlboro con dentro 20 joint, se saremo liberi di comprare medicinali a 8.000 euro l'anno, forse abbiamo perso di nuovo. L'altro discorso molto pesante e importante che facevi è riguarda quello dei diritti, perché nelle carceri, immagino quelle statunitense, ma poi a ricasco in tutto il mondo, una parte importante della popolazione carceraria è legata a delitti connessi al traffico di sostanze stupefacenti, per lo più spesso droghe leggere. Certo, ma infatti io metto i dati un po' degli Stati Uniti, che sono il 46% delle persone che sono in galera sono lì per cose legate al proibizionismo, e più del 90% di questi solo per marijuana. Questi sono i numeri, ma non sono molto diversi in Europa. In Italia il 38,4% è dentro per cose legate alla droga e al proibizionismo in generale. Quindi in realtà il 40% del sistema penale, giudiziario e legale mondiale è basato sul proibizionismo. Sì, dappertutto, sì, le carceri, sì, le polizie, i giudici, per la metà del loro lavoro è proibizionismo. Sì. Senti Francesco, proprio rispetto all'esempio americano, quanto sta succedendo lì e cosa si sta muovendo in Italia per quello che hai potuto vedere? Guarda, in Italia noi questo film lo presentiamo anche in Senato lunedì. C'è una proposta di legge firmata da oltre 200 parlamentari. Ieri c'era una discussione di una proposta di legge in Sardegna che è stata prontamente bocciata. Qualcosa si sta muovendo, ci sono ancora molte paure, però qualcosa si sta muovendo, ma in realtà non dobbiamo stare attenti, perché appunto dal mio punto di vista è già legale e si stanno aprendo le maglie. Il problema è che probabilmente le stanno aprendo per le farmaceutiche e per chi deve farci business più grossi. Certo, è il momento, secondo me, che chi è interessato a questa cosa fa sentire la sua voce. Sì, sì. Francesco, come è organizzata la proiezione di mercoledì 31 maggio al The Tour? Sarai presente anche tu? Ci racconti un po' come è organizzata? Io sono presente assolutamente. Appunto, i ragazzi del The Tour mi danno questa possibilità, perché è un film che non ha una distribuzione ufficiale al momento, è un film assolutamente indipendente, autoprodotto e in questo momento autodistribuito. Appunto, facciamo una serata il 31 al The Tour, sul sito ci si può prenotare mercoledì 31 alle 21:30. Perfetto, allora i riferimenti web ce li hai... scusami, alle 20:30. 20:30. 20:30 mercoledì 31. Perfetto. Allora Francesco, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Ricordiamo l'appuntamento del 31, mercoledì 31, qui a Roma al Cineclub The Tour con Rilegalize. C'è anche un sito e una pagina Facebook. Per chi ci sente da più lontano, stasera siamo a Perugia. Perfetto. Al cinema postmodernissimo. Un viaggio nella cannabis rilegalizzata, per la regia di Francesco Bussano. Tra l'altro montato da Luca Mandrile, che è un vostro amico. Ah, come no, di lunga, certo, data. Certo. Allora salutacelo e Francesco un abbraccio e a presto. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao. Francesco Bussalai, regista appunto del documentario Rilegalized, un viaggio nella cannabis rilegalizzata. Parliamo ora della 35esima edizione del Bellaria Film Festival dal 25 al 28 maggio. Ne parliamo con Massimiliano Maltoni. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Massimiliano. Buongiorno a tutti. Allora, 35 edizioni sono un bel numero. Come si caratterizza il Bellaria Film Festival? Allora sì, effettivamente è un gran numero per un festival che può vantare una delle tradizioni più lunghe nel panorama dei festival in Italia. Questa 35esima edizione si svolge nel nome del ricordo del critico cinematografico Alberto Farassino, uno dei più grandi e scrupolosi studiosi di cinema che il nostro paese abbia mai avuto, che fu un esponente di spicco di quella cosiddetta giovane critica degli anni 70. Alberto Farassino è un prezioso compagno di viaggio del Bellaria Film Festival, di cui è stato anche presidente negli anni in cui la manifestazione si chiamava Anteprima per il cinema indipendente italiano. Diciamo che il ricordo di Alberto Farassino si declina un po' lungo tutte le giornate del festival. Avrà un momento clou nella serata di domani sera, quando Alberto Farassino verrà appunto ricordato con un incontro aperto al pubblico con il docente dell'Università di Bologna Marco Antonio Bazzocchi, lo scrittore Hans Tuzzi e il critico Tatti Sanguinetti, che è stato un compagno di avventure cinematografiche di Farassino per oltre 30 anni, e anche Fulvia Pedroni Farassino, appunto la moglie di Alberto, di cui il Bellaria Film Festival ha acquisito alcuni scatti che saranno esposti nei luoghi del festival, realizzati proprio negli anni bellariesi di Farassino. A ruota di questo incontro avremo poi l'esibizione, diciamo la sonorizzazione di Colapesce, di uno degli esponenti principali di questa nuova scena cantautoriale in Italia, Colapesce, che sonorizzerà delle immagini dei lavori di Vittorio De Seta, certamente uno dei padri del cinema del reale in Italia. Ma non finisce qui, perché il Festival di Bellaria si è fatto anche promotore, con la complicità della casa editrice Q Press, della ristampa di una riedizione, anzi, di uno dei lavori critici più importanti di Alberto Farassino, che è Neorealismo Cinema Italiano 1945-1949, e appunto la riedizione del volume sarà presentata qui in occasione del festival. Allora, passiamo alle proposte cinematografiche. Il documentario è il grande protagonista, parlacene un po'. Allora, è assolutamente il grande protagonista, l'esplorazione sul cinema del reale, che è appunto la caratteristica preponderante del Bellaria Film Festival, si realizza nella composizione dei due concorsi che rappresentano un po' il cuore pulsante della nostra manifestazione, che sono il concorso Italia Doc e il concorso Casa Rossa Art Doc. In totale sono 18 i film finalisti, 10 nel concorso Italia Doc e 8 nel concorso Casa Rossa Art Doc, e tra questi 18 ben 7 vengono presentati in prima visione. Tutti i film sono accompagnati dai loro realizzatori e alcuni di essi anche da ospiti di eccezione. Per citarne alcuni avremo il fotografo cesenate Guido Guidi, considerato un po' l'erede di Ghirri per quel che riguarda appunto la fotografia del paesaggio, che è il protagonista di un film che si chiama Guido Guidi Cose da Nulla, che è in concorso Art Doc. Però avremo anche Imma Di Ninni, l'attrice Imma Di Ninni, protagonista del film Imma, che viene qui a Bellaria in anteprima direttamente dal Festival Vision Jurel di Nyon, e questa sera il poeta Guido Catalano, che accompagnerà il film che lo vede protagonista, Sono Guido e non Guido. Senti, per quanto riguarda i documentari, oltre alla qualità, quali sono stati i criteri di scelta? Se ci sono temi ricorrenti, dici un po'. Ma temi ricorrenti non ce ne sono. Noi quello che cerchiamo di fare, ovviamente di proporre al nostro pubblico scegliendo i film, è quello di mostrare una gamma la più ampia possibile di come il linguaggio del cinema documentario possa svolgersi. In questo quindi lavoriamo anche su formati diversi, perché abbiamo film che durano dagli 11 minuti fino agli 80 minuti, al formato del lungometraggio, realizzati anche con linguaggi e stili completamente diversi da quelli più diciamo osservativi, come può essere ad esempio Sopra il fiume di Vanina Lapa, anche a documentari diciamo di forma più classica o più tradizionali, o anche di semplicemente di montaggio, come può essere ad esempio le Scandalose di Gianfranco Gianni. Sì, cerchiamo in qualche modo di trovare documentari che raccontino delle storie con un linguaggio non consueto, non tradizionale. In questo ovviamente i temi poi vengono un po' da sé, ma non è diciamo la nostra principale ossessione. Sì, insomma. Sì. E dato che è una vostra peculiarità, mi incuriosisce anche il tuo punto di vista rispetto allo stato del documentario italiano. Ma da un certo punto di vista quest'anno abbiamo notato una ricchezza nei film che ci sono arrivati come per candidarsi, no? per per diventare finalisti dei nostri concorsi che negli altri anni non abbiamo riscontrato. Questo è un dato positivo, perché vuol dire che intanto il Bellaria Film Festival si sta riposizionando in quel ruolo di guida sul cinema documentario italiano che ha sempre avuto per tradizione, e anche perché c'è una vivacità nel cinema documentario, grazie anche magari alle vittorie nei festival internazionali di Gianfranco Rosi, o anche alla possibilità di una distribuzione, per quanto ancora abbastanza erratica, che per fortuna, grazie a qualche esercente coraggioso, il documentario italiano sta avendo. Per cui c'è, come posso dire, una scena che si sta riaffacciando a questo linguaggio, cercando anche di dare degli elementi innovativi, partendo anche un po' dai maestri, ecco perché ci piace lavorare su figure fondamentali come appunto Vittorio De Seta, o presentare anche film di registi già più affermati, come ad esempio la presentazione dell'ultimo film di Gianfranco Pannone, Lascia stare i Santi, affiancandoli a giovani registi, perché quasi tutti i registi dei film in concorso sono abbondantemente sotto i 40 anni, che appunto con il loro entusiasmo, diciamo, ridanno nuova linfa al documentario italiano, che appunto ha avuto nomi di grande prestigio. Citavamo appunto De Seta prima. Sì, sì. Massimiliano, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Allora, il riferimento web, il nostro sito è bellariafilmfestival.org. Ovviamente ci sono le tre W all'inizio. Se mi restano ancora 30 secondi, volevo solo ricordare altri due eventi speciali. La chiusura del festival, che sarà la sonorizzazione live di Bollani, del film Come vinsi la guerra di Buster Keaton, e sabato sera i Meno 20, una delle eccellenze teatrali della regione Emilia-Romagna, che si presentano in anteprima assoluta il loro spettacolo teatrale Romagna Relax. Benissimo. Che fa parte di questa raccolta, il secondo episodio di questa raccolta curata appunto dai Meno 20, che è Ascoltate alla piscina dell'Ermitage. Comunque sul nostro sito bellariafilmfestival.org trovate tutti i riferimenti e veniteci a trovare. Io già lo feci a suo tempo, sono stato ospite del Bellaria Film Festival, lo ricordo con piacere. Massimiliano, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, buona giornata. Ciao. E crepi il lupo, ciao. Okay. Massimiliano Maltoni, della 35esima edizione del Bellaria Film Festival, dal 25, quindi da oggi, fino al 28 maggio, domenica. Luisa Porrino, regista del documentario Porto il velo, Adoro i Queen, documentario al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana, con una foto di scena con le tre protagoniste in campo. Luisa, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti e grazie dell'invito, assolutamente. Beh, già il titolo mi titillava molto, ho avuto il modo di vederlo, quindi ho apprezzato anche il tuo fare cinema. Luisa, per chi ci sta ascoltando... Mi sento un po' male, devo dire la verità, forse diventa gracchiante la voce. Sì, forse è proprio questo è il telefono che ho usato. Comunque, per chi ci ascolta, racconti un po' di cosa si tratta? Non ti sento più, purtroppo, non sento più nulla. Io ti sento. Ah, tu mi senti? Sì. Ho capito, solo tu mi senti. No, raccontiamo la storia di cosa parla questo film. Ok, la storia di come è nato il film, vado per intuizione, perché ahimè la voce va in modo, va e viene. Comunque, questo progetto è iniziato oramai circa 5 anni fa, e io ero semplicemente molto curiosa nello scoprire la vita delle mie, diciamo, nuove concittadine italiane e musulmane velate, perché sono poi di fatto un'identità nuova all'interno di quella che è la nostra società, perché sono ragazze, donne nate come me dagli anni 70 in poi, con la prima ondata migratoria vera a cui abbiamo assistito nel nostro paese, e quindi nasce da una diciamo curiosità. Allora iniziai a fare ricerca e quindi a cercare magari donne o ragazze che già si esponessero e avessero voglia di raccontarsi, quindi non so, scrittrici piuttosto che artiste o diciamo intellettuali di sorta. E nelle ricerche sono ho trovato questo libro, che era appunto Porte Violadori Queen, che è un romanzo scritto da Sumaya Abdelkader, che poi nel tempo è diventata una delle protagoniste del documentario. E poi ho anche rubato il titolo del suo libro solo perché l'ho sempre considerato geniale e perfetto, perché così in due frasi racconta la dicotomia che poi queste persone vivono quotidianamente, no? Un po' in bilico tra la cultura di nascita e quella di origine delle famiglie. E così, quindi insomma, è nato in questo modo qua, da una curiosità. Poi nel tempo, mentre io lavoravo per trovare, diciamo, la chiave giusta per raccontare questi personaggi, che poi di fatto si parla tantissimo di musulmani, tantissimo anche di velo, tantissimo di hijab, non era il mio presupposto, però poi nel tempo, nel racconto, in qualche modo il film è diventato anche a suo modo, diciamo, un piccolo strumento per decostruire uno stereotipo che noi abbiamo nei confronti, diciamo, soprattutto delle donne musulmane che indossano l'hijab, perché ci viene sempre raccontato un frangente laddove invece i frangenti sono tantissimi, molteplici e così via. E poi soprattutto si parte dal presupposto che è una libera scelta di tutte e tre le protagoniste del tuo documentario. E per chi ci ascolta, sempre per chi ci ascolta, racconti anche come è strutturato il documentario? Sì, dunque, la mia idea era quella di costruire tre ritratti, quindi ritratto sia dal punto di vista fotografico, quindi a me, che nasco poi come fotografa, mi piaceva tantissimo avere l'opportunità di fotografare, nel puro senso della parola, dei soggetti così nuovi per me, per la mia esperienza, e quindi c'è quella questione lì che si sviluppa all'interno di tutto quanto il film. E poi proprio la narrazione io volevo che venisse da loro, perché io volevo restituire quello che io volevo restituire la mia esperienza, diciamo, di anni di conoscenza fatta fondamentalmente di dialogo e di, diciamo, di arricchimento, di scontro, tutto ciò che viene nel momento in cui persone così che appartengono a culture, diciamo, a sfere culturali anche diverse, perché poi siamo italiani, quindi siamo molto molto simili, a questi va incontro. Quindi diciamo che il racconto del film è il racconto delle donne, di se stesse, della loro vita, del loro approccio alla vita, al lavoro, alla famiglia, oppure allo studio, perché hanno diverse età, quindi ognuna di loro è, diciamo, in un momento della vita leggermente diverso. E tutti questi discorsi li abbiamo sviluppati, diciamo, sulla linea guida principale del concetto di libertà individuale, libertà di scelta, di diritto di scelta, di autodeterminazione della donna e anche poi dei popoli, perché abbiamo parlato di tanti argomenti, di tante sfaccettature della vita. E quindi sì, insomma. L'ho spiegato bene? Sì, l'hai spiegato bene, e devo dire, da spettatore, uno degli aspetti che mi hanno convinto di più nel tuo lavoro è che in un'epoca di esibizione del sé e del corpo della donna come oggetto del desiderio, a partire dalla pubblicità, ma soprattutto nella cultura occidentale, ma non solo, da una parte appunto c'è questa esibizione del sé a cui contribuiscono chiaramente anche i social media, e dall'altra c'è anche qui c'è comunque da un estremo all'altro, perché c'è appunto la scelta delle tue tre protagoniste di invece di portare il velo, ma anche non solo, perché anche indossano dei vestiti molto larghi che assomigliano anche un po' a delle tuniche. E sì, perché una di loro, soprattutto Sumaya, perché poi il velo è l'oggetto, no? Che sì, si mette in testa, sì. In realtà si chiamerebbe hijab, e poi l'hijab non è solo il velo in testa, ma è proprio tutto un abito, sì. E che ce ne sono di diverse tipologie a seconda anche un po' dei paesi di origine delle famiglie di queste ragazze, perché poi ogni paese ha la sua, diciamo. Ecco, ce l'abbiamo fatta, però a questo punto ripetiamo anche la domanda rispetto al... Allora, intanto ti dicevo che una delle impressioni del documentario come spettatore è stata quella che in epoca di esibizione del sé a partire dai social media, ma anche a causa di una cultura indotta che fa del, per esempio, del corpo della donna l'oggetto del desiderio, e di contro c'è questa scelta delle tre protagoniste di portare un velo e anche un vestito che invece il velo diciamo che contorna il viso, però il vestito insomma nasconde molto alla vista, il che mi sembra una scelta. Non tutte indossano l'hijab completo, molte ragazze indossano, diciamo, l'hijab, il velo, e poi sotto sono vestite all'occidentale, diciamola così, e alcune invece indossano proprio tutto quanto l'hijab, quindi tutto l'abito, che poi è anche abito tradizionale, che mi dicevo prima, perché poi a seconda magari dei paesi di provenienza, di origine di queste ragazze, hanno colori diversi piuttosto che magari un taglio diverso, e quindi diciamo è molto ricco. sì, sicuramente io ti dico che aggiungerai a questa cosa che tu dici, che è che oggettivamente è possibile, è vero, sicuramente si contrappone rispetto a questa idea, diciamo, altra, di mostrare o meno il corpo della donna. Però io diciamo negli anni di lavoro con queste ragazze ho percepito anche che c'è qualche cosa di un po' più distante da noi, nel senso che la pratica del velo e tante altre cose legate prettamente poi alle pratiche religiose musulmane, c'è qualche cosa che stacca molto da quella che è la nostra percezione della religione, la nostra pratica della religione qui, quindi diciamo principalmente cristiani, cattolici, perché poi è sempre stato così, e c'è qualche cosa invece che avvicina queste pratiche molto di più alle discipline orientali, che mi hanno fatto riflettere sulla meditazione, proprio su un uso quotidiano, un approccio quotidiano diverso con il proprio corpo, quindi c'è anche altro che poi in quella diversità culturale in cui siamo, diciamo, dentro come pluralismo culturale oggi nelle nostre città. Quindi ecco, insomma, ci tenevo a sottolineare anche questo punto qui, perché sennò sembra che anche la questione del femminismo si riduca a una messa in piega sì o no. C'è tanto di più, e poi c'è tanto di più di sfaccettature, proprio di diversità, di approccio diverso all'utilizzo di una stessa cosa, come può essere il velo, che sì, è comune magari a tutte e tre le religioni monoteiste, perché c'è il velo di Maria, c'era il velo della moglie di Abramo, insomma. Non sono un'esperta teologa, però questo rientra un po' nell'ABC, ecco, quindi è sicuramente una tradizione che arriva da molto lontano e che accomuna tutti, poi a seconda di tanti paesi, di tanti posti, ognuno con la sua storia si è sviluppato in modo diverso e quindi ha pratiche diverse. Ecco, invece poi un'altra pratica che mi sembra all'opposto e per certi versi per altri versi anche interessante, come quella che dicevo sull'esibizione del sé, riguarda certo femminismo che fa del corpo un uso consapevole del corpo esposto, come anche del rispetto al porno, un uso consapevole del proprio corpo e autodeterminato, e dall'altro appunto questa scelta delle tue protagoniste che è comunque autodeterminata e non è imposta da alcuno. Esatto, sono tutte le varie sfumature che abbiamo nella nostra società di oggi tra il bianco e il nero, no? Ci sono moltissime sfumature. Senti, come è stato visto da loro il tuo documentario? Come lo hanno come ne avete parlato al risultato raggiunto? Il risultato raggiunto, devo dire che sicuramente due di loro sono state molto soddisfatte, sono, diciamo, Sumaya e Batul, che sono le due protagoniste, se vogliamo, un pochettino più grandi, anzi, senza se vogliamo, sono semplicemente più grandi, più adulte, hanno superato i 30, diciamo. E mi è piaciuto molto, sono molto contente, e hanno partecipato alle proiezioni, ai dibattiti insieme a me quando è stato possibile. Anche settimana scorsa, per esempio, sono stata a Trento, che è la città natale di Batul, e siamo stati insieme con un paio di associazioni che lavorano sul territorio e si occupano, insomma, di integrazione piuttosto che di intercultura o di diritti delle donne, eccetera. Erano tre le associazioni e insomma abbiamo fatto sold out, quindi siamo contenti, insomma, di comunicare questo messaggio. Taqua anche ha partecipato a parecchie proiezioni con me. Lei, forse, se posso dire la verità, è quella che quando guarda il film magari si sente un po' così, perché è passato tempo dalle riprese. Io, quando ho fatto il lavoro con lei era una studentessa, da allora lei si è diplomata, ha finito gli studi, stava lavorando su una graphic novel, l'ha finita, l'ha pubblicata, quindi chiaramente lei è cresciuta parecchio, perché ha anche un'età diversa, aveva 23 anni, quindi quando lo vede dice: oh, caspita, però come ero giovane, questa cosa l'avrei detto in un altro modo. Dico: vabbè, è così. Però diciamo che siamo tutte contente del lavoro, perché è stato anche un lavoro fra di noi, di dialogo fra me e loro, sì. E di trovare, diciamo, la via per comunicare insieme, insomma, le cose che avevamo capito anche l'una dell'altra. E rispetto al pubblico, alle donne che invece magari sono contrarie all'uso del velo, com'è stato il confronto? Dunque, ci sono sempre molte posizioni diverse, solitamente il film, e poi con noi anche in sala, aiuta molto e fa comprendere come poi, appunto, la realtà della comunità musulmana in Italia innanzitutto è sfaccettatissima, e intanto aiuta a focalizzare un attimo a che cosa sono i nuovi cittadini italiani, quindi le ragazze, nello specifico, musulmane che indossano l'hijab, che sono nate qui, a magari persone che arrivano dall'immigrazione di adesso, che chiaramente sono due mondi completamente diversi, piuttosto che confondere ciò che accade nei paesi esteri, cioè in altri paesi dove le donne oggettivamente subiscono il velo, e questo, vabbè, è solo una cosa, perché poi le donne che subiscono il velo significa un'intera società che subisce una mancanza di diritti violenta, che poi si traduce in dittature di svariate nature, e però si confonde, perché quello succede, non lo so, in Afghanistan, succede nello Yemen, succede, ahimè, in Siria, cioè, insomma. Però questo non riguarda l'Italia, perché si tende sempre a confondere molto queste due cose, cioè si uniscono insieme, e non è così. Sono cose diverse, quindi il film in questo senso aiuta, focalizza, e quindi, se non altro, mette un po' le premesse per un dialogo diverso. Poi nella varietà del pubblico ogni tanto salta fuori qualcuno che magari dopo un'ora di dibattito molto bello, dove poi si sono trovati nuovi modi di parlare, magari le persone non parlano più con me ma parlano fra di loro, che è molto carino, perché poi il pubblico è variegato, ci sono ragazze musulmane, persone non musulmane, quindi diventa anche un po' lo spunto dell'incontro. E qualche volta, sì, dopo tutto questo arriva quella che dice: però noi abbiamo lottato per togliere i veli, magari soprattutto signore, eccetera eccetera, che io da femminista dico: ma lo sappiamo benissimo e vi ringraziamo per tutto ciò, ma oggi la nostra società è questa qui, e dobbiamo conoscere le diversità che ci caratterizzano. E lì sì, qualcuno c'è, però che lo fa? Fa parte del gioco, non so come dire. Perché secondo me è così, cioè la diversità va accettata. Prima accetto che ci sono un sacco di diversità nel mondo che mi circonda, e poi prima di cerco di conoscere, o se no magari sto zitta, cioè, io la vedo così. Senti, Luisa, per a questo punto, per saperne di più, anche rispetto a un calendario di proiezioni, ci lasci riferimenti internet? Sì, allora, il film è distribuito dalla piattaforma Movie Day, movieday.it, il sito dove si può trovare Porti il Velo, e che è una distribuzione alternativa, perché Porti il Velo è un film su richiesta, quindi è il pubblico che lo richiede nella sua città. Ci sono 160 sale convenzionate con Movie Day ad oggi, e quindi diciamo lì funziona così, e c'è il calendario delle proiezioni in programma Movie Day. Invece, per avere proprio tutte le proiezioni, perché si fanno anche proiezioni in sedi diverse dalla sala cinematografica, per quello c'è il sito, che è portilvelo.com. Ora, per il mese di giugno ho ancora parecchie date che non ricordo benissimo, ma sono sul sito, perché ce ne sono due a Roma, una a Salerno, una a Bari, e siamo in sala dal 3 marzo, e quindi abbiamo già fatto una quarantina di proiezioni su una trentina di città, non me lo ricordo, comunque insomma sta girando bene, sono contenta. Bene, allora Luisa, un abbraccio, a risentirci presto. Va bene, grazie ancora tantissimo a voi. Ciao. A presto allora, ciao. Ciao. Luisa Porrino, regista del documentario Porto il Velo, adoro i Queen. Finalmente siamo riusciti a prendere la linea, questa volta con Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema, per parlare di Bugs di Andreas Johnsen, in uscita in sala il prossimo 29 maggio, che è lunedì. Allora Anastasia, intanto ben ritrovata. Grazie, ciao a tutti. E poi un documentario veramente illuminante, l'ho visto ieri sera, allora raccontiamolo un po' a chi ci ascolta. Allora, il film parte dal presupposto che da qui a un po' di anni sarà molto difficile riuscire a recuperare il cibo per sostenerci, nel senso che il nostro sostentamento è a rischio, che saremo in troppi e quindi dovremo trovare degli altri di nutrirci. E poi parte anche dal presupposto che in realtà noi in Occidente siamo veramente tra i pochi che non inseriscono gli insetti nella propria dieta alimentare quotidiana, e che in fondo forse si tratta solo di un pregiudizio culturale, visto che guardando un po' dagli insetti da vicino, alcuni in particolare, insomma c'è veramente poca differenza tra un insetto e un gamberetto, tra insomma, una lumaca e che noi mangiamo abbastanza costantemente e un altro e altri vari insetti. Di conseguenza il regista, che comunque è uno che studia e che ha studiato questo argomento per da tanti anni, nel senso noi attraverso questo Nordic Food Lab che ha fondato e che gestisce in Danimarca, ci accompagna in un viaggio alla scoperta di tutti i luoghi in cui gli insetti sono parte appunto della dieta, e scopriamo come possono venire cucinati, quali sono gli elementi nutrizionali, e ci chiediamo anche quando arriveranno un po' da noi. Noi, per dire, abbiamo fatto una premiere del film a Milano di recente durante la Food Week, e c'è stata in testa al film un momento di degustazione. Sono arrivati questo gruppo, che comunque si sta organizzando anche in Italia, che ha portato in assaggio dei contenitori con dei grilli, delle locuste, ovviamente commestibili, tutte pronte per l'assaggio. Ha dato delle istruzioni un po' al pubblico: il grillo si mangiava tutto intero così, perché bisogna anche più piccolino, invece la locusta bisognava togliere alcune piccole parti. Devo dire che io sono un po' scettica e ho assaggiato soltanto il grillo, la locusta mi faceva un po' impressione, però in effetti il sapore poi, e anche i biscotti che ad esempio l'hanno portato lì ad assaggiare con la farina di grillo, veramente non hanno niente, cioè sono veramente normali, cioè sono buoni. Devo dire che sono piuttosto d'accordo che sia tutto prodotto in pregiudizio culturale, e che presto dovremo necessariamente anche superarlo. Eh sì, anche perché contengono gli insetti delle proteine che possono sostituire quelle degli altri animali che sono invece parte integrante della nostra dieta. Il documentario ci fa sapere che sono oltre 1900 le specie di insetti commestibili, alcuni si mangiano crudi, altri cucinati, e nel documentario c'è anche un cuoco sardo che li cucina nei vari esperimenti e nei vari luoghi in cui i protagonisti si recano. Il problema è proprio quello del gusto, del sapore, di renderli comunque piacevoli al palato. Sì. Adesso ci sono degli chef molto anche noti che cercano un po' di avvicinare, di rendere meno, così, di rendere più semplice l'avvicinamento a questo nuovo modo di mangiare. Ad esempio Noma cucinano, hanno cominciato a cucinare proprio dei piatti, quindi di alta cucina, con utilizzando degli insetti, insomma sempre di più anche in Europa. Dentro i menù, insomma, dei ristoranti ci cominciano ad esserci insetti. Da dire che c'è anche un problema legislativo, perché da noi ad esempio ancora esatto, non si potrebbero vendere. Cioè, ecco, uno dei discorsi interessanti del documentario è che gli ostacoli più grandi arrivano proprio dall'Europa e dagli Stati Uniti, e probabilmente il discorso è quello relativo al controllo del cibo. Mantenere una parte della popolazione anche consistente sotto il ricatto del cibo dà potere a tutta un'altra parte economica che invece ha prevalenza sull'altra. Sì, infatti si riferisce che questo tema, che è importante, che quindi ci ha usato per ora un momento di difficile, che però dovrà essere per forza superato, ma ogni giorno qualche cosa si cambia rispetto a questo argomento, perché è veramente attuale. Infatti ne parlo ovviamente da quando poi ho conosciuto meglio, anche attraverso il documentario, capendo un po' la Nordic Food Lab, questo tema. Vedo che si sta muovendo anche in Europa, in alcuni paesi la legislazione sta piano piano sempre modificandosi. Nonostante, esatto, queste resistenze di cui tu dicevi. Sì, anche perché la relativa facilità con cui si possono arrivare a mangiare gli insetti, a prenderli e poi cucinarseli, determina anche una sorta di autodeterminazione alimentare che allieverebbe un sacco di questioni aperte rispetto proprio all'alimentazione mondiale. Infatti, assolutamente, potrebbe risolvere un po' di problemi in modo più semplice di quanto si immagini. No, infatti, per questo è anche grosso come argomento, che ha varie implicazioni importanti. Quindi non è, come dice, parlare sugli insetti, che sembra una cosa solo divertente, seppur comunque loro siano simpatici, certo. Però è un argomento importante, cioè non è solo una cosa di cui ridere e dire oddio, cioè come capita ogni tanto parlando del film, cioè soltanto qua magari qualcuno un po' pensa che vignata, pensa che sia una cosa di costume, in realtà non è un film che parla di questo. Arriva a toccare proprio il concetto di sovranità alimentare. Anastasia, come sarà distribuito il documentario? Raccontaci un po'. Allora, l'idea è proprio di cercare il più possibile di coinvolgere chi già lavora in Italia su questo argomento, che riesca quindi a trasformare le proiezioni in un momento di confronto di dialogo, di dibattito. E quindi stiamo cercando nelle varie città chi si occupa, chi sa, chi può accompagnare con la degustazione, la proiezione, per dare ancora degli elementi in più rispetto a quello che sta succedendo nel nostro paese, che nel film è solamente accennato, perché c'è un approccio un po' più globale, ecco. A Roma in questo momento spero possa confermarlo anche tu, ma mi sembra proprio il giorno stesso quindi il 29, anzi sono sicura ora, il 29 al Farnese ci sarà un evento molto importante con tanti ospiti, tra cui Don Pasta e altri ospiti che verranno proprio a a parlare dell'argomento e intrattenere. Quindi mi raccomando, soprattutto a Roma c'è grande, cosa importante, occasione di avere un film accompagnato da tanto intorno, e c'è proprio un momento importante, il 29 al Farnese, lo segnalo più di tutto. Benissimo. Anastasia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, grazie, ciao a tutti. Ciao. Anastasia Plazzotta di Wanted Cinema sulla distribuzione del documentario Bugs di Andreas Johnsen, in uscita in sala il prossimo 29 maggio, lunedì. Avremmo dovuto sentire anche Giovanna Taviani, direttrice dell'undicesima edizione del Salina Doc Fest dal 24 al 29 giugno, per parlare un po' della campagna di finanziamento che è avviata, manca un mese al festival, per sopperire alle gravi mancanze economiche, però lo faccio io perché lei è impegnata, e per tutte le informazioni relative al Salina Doc Fest c'è il sito internet e la pagina Facebook. Con il documentario Bugs chiudiamo l'appuntamento di questa settimana con Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page c'è Ascolta la diretta, sull'home page c'è anche la colonna centrale delle trasmissioni, alla voce Visionari trovate la scaletta della puntata di oggi, le informazioni sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci sentiamo giovedì prossimo, buon proseguimento.